Intanto cominciamo la nostra serata, vi ringrazio di essere qui con noi al Centro TV, che è la nostra, una delle nostre sedi provvisorie per le iniziative che la Biblioteca Provinciale porta avanti dal 2002, cioè dall'anno in cui è stata istituita, e che hanno così come finalità quella di favorire l'incontro con gli autori e con il pubblico, per così stimolare la curiosità e così far venire anche la voglia, la curiosità di frequentare, di utilizzare il materiale che questa biblioteca mette a disposizione del pubblico. Noi siamo in via Mendola 5 qui a Bolzano e abbiamo una particolare missione, che è quella di raccogliere anche la documentazione relativa al territorio, quindi da anni ci occupiamo di memorialistica, ma anche e soprattutto di narrativa, di letteratura raccontata da autori locali oppure di autori non locali, ma che ci descrivono e ci raccontano il territorio, la cosiddetta letteratura di confine, che non sappiamo ancora come definire, forse c'è, forse non c'è, è stata una diatriba che si è aperta ancora tempo fa con varie posizioni e che ancora oggi siamo in attesa di verificare, sì, insomma, no? Siamo, ecco, ci stiamo lavorando, sì. Ecco, sono qui con noi questa sera Aldo Mazza per la casa editrice Alfabeta, una persona che conoscete, abbiamo già avuto il piacere di averlo ospite presso la nostra biblioteca. È con noi anche l'autore Paolo Bilvalette, che ha lavorato per Il Segno, è direttore della Caritas e autore di numerosi libri già presentati anche nella nostra biblioteca. Una novità è per noi Elisabetta Scavatta, che stasera ci allieterà e ci arricchirà con le sue letture. Abbiamo avuto modo di conoscerla già la settimana scorsa in occasione della presentazione del libro di Bruna Maria dal Lago Veneri. È stato molto bello ascoltare attraverso la sua voce anche alcune parti di Illumina Rustica, che era appunto il libro presentato presso il Cristallo. Ecco, io non aggiungo altro se non che questo libro, Leggende Milanesi, mi sono permesso di leggerlo in anteprima in parte ed è stato veramente molto bello, curioso, e penso di finirlo in questi giorni perché mi è piaciuto davvero. Vi ringrazio di essere qui con noi e vi invitiamo a frequentare e venire a trovarci in via Mendola 5. Grazie. Allora, buonasera, sono Aldo Mazza, di loro il piacere di essere qui a presentare questa ricerca di Paolo Valente, che ha già fatto varie cose con noi, che sono un po' lo specchio anche delle sue attività, diciamo, scrittore, giornalista, storico, ricercatore, ma la cosa più importante per me di Paolo, che tra l'altro attualmente da alcuni mesi è direttore della Caritas, quindi si è riciclato ulteriormente, direttore della Caritas a livello provinciale, italiano, perché abbiamo la doppia. Dicevo, le cose che mi hanno sempre molto colpito di Paolo sono una fortissima curiosità, una fortissima attenzione, direi senza essere retorico anche un forte amore per questa terra, no? Dove in qualche modo cioè anche l'attività di storico, di ricercatore non si ferma, diciamo, al tentativo di ricostruzione ai fini di documentazione di qualcosa, ma io l'ho vista già con il lavoro fatto su Sinigo, per Merano, con il maestro Di Cordè, che è narrativa, diciamo, e anche c'è una volontà molto forte di fornire strumenti, no, per interpretare, no, e vivere meglio questa realtà. Questo è quello che è la mia impressione da lettore, diciamo, oltre che da editore. Queste leggende meranesi, vedete qui un librettino denso, diciamo, che nasce appunto da una ricerca di Paolo, ed è stato un tentativo di riflettere. Lui dice appunto sono molto interessanti per me sia la premessa che la guida al lettore, per avere proprio un po' il senso dell'operazione, però poi ce lo dirà anche Paolo qual è il senso. Perché questa raccolta di leggende oscilla molto tra tra la mitologia classica e quella germanica, insomma, c'è un miscuglio, una contaminazione che poi diciamo che è una caratteristica della nostra terra. Già nella premessa, nell'introduzione che fa Paolo, c'è una contraddizione, nel senso che lui cita un autore del 36, Schreiber, no? Il quale dice nasce 1836, sì, scusa. Merano nasce dal contrasto e dalla contraddizione, sostiene, no? Cioè vede anche il paesaggio, vede tutto in questa ottica di contrasto, di contraddizione, mentre poi nel prosieguo dell'introduzione cita Stefan Zweig, che nel 19 leggo testualmente: nulla stride, pensando a Merano, nulla stride e tutti gli opposti si fondono placidamente, persino gli elementi più ostili sembrano qui concilianti e familiari, arrivando a dire alla fine che qui la natura ha scritto sul mondo la parola pace. Quindi c'è anche queste letture diversissime di questo personaggio, di questo paesaggio o di questa terra, che può passare dagli opposti alle contraddizioni anche alla cosa armoniosa, no? Allora, Paolo, per darvi adesso, passo subito la parola a lui, che è quello che può meglio raccontare. Io volevo, così pensavo che potesse essere interessante, visto che si tratta di una ricerca un po' atipica, che tu ci dicessi come mai ti è venuto in mente, perché hai deciso di fare questa ricerca, che poi è diventata la raccolta è diventata un libro, la ricerca più vasta. Noi abbiamo poi fatto una raccolta che potesse essere letta da più persone. Qual è praticamente il motivo, come mai sei arrivato a fare questo tipo di ricerca? Intanto buonasera a tutti, grazie Aldo per la presentazione. Il motivo nasce appunto da quella che tu hai definito curiosità, perché questa curiosità mi ha portato nel corso di questi anni a indagare in varie forme la storia della nostra terra, di Merano in particolare. Merano, vista anche un po' come un luogo atipico e nello stesso tempo un luogo che fa parte del Tirolo storico e anche dell'attuale Alto Adige, quindi ci può offrire anche una chiave di lettura anche al di là del nostro tradizionale modo di intendere questa terra, ma in modo particolare proprio perché contiene questi contrasti, queste contraddizioni che continuano a esserci, continueranno a esserci, no? Anche quando, come dice Zweig, si conciliano, no? Però si conciliano, ma continuano anche a permanere, no? E questo lo vedono i viaggiatori, le persone curiose nel corso dei secoli, quando passano sia per l'Alto Adige che per Merano in particolare, notano queste contraddizioni, no? Dicevo prima a qualcuno che mi chiedeva se andiamo oggi a Merano, oggi nel senso che oggi 9 marzo vedremo queste montagne alte 3.000 metri tutto intorno con la neve, e sotto vedremo le palme, una flora, diciamo così, mediterranea, no? Tanto per dire, no? Da dove comincia la contraddizione. Vedremo il vecchio, vedremo il nuovo. Sul piano della cultura vedremo non solo la cultura italiana e quella tedesca, ma tante altre frammenti di culture che nel corso dei secoli si sono sedimentate in questa realtà, non sempre in modo pacifico, anche in modo conflittuale, e questo è proprio ciò che rende interessante questa realtà. Nel indagare la storia, più volte io mi ero imbattuto in piccole storielle, no? Leggende, tra tante appunto l'origine di Merano, del nome di Merano, no? Che poi è la prima leggenda riportata, no? Secondo cui a Merano un tempo c'era il mare, anche questa naturalmente è una contraddizione, no? Fino a un certo punto, perché poi sappiamo che montane aree geologiche, effettivamente la nostra regione era sommersa dal mare, però questa leggenda racconta che c'era il mare che arrivava fino, diciamo così, non so se tutti conoscete la chiesetta di San Pietro, che è abbastanza vicino a Castel Tirolo, più o meno allo stesso livello, quindi, ecco, arrivava fino lì, tanto è vero che raccontavano erano stati trovati degli anelli anche di ferro nella roccia dove i pescatori o i barcaioli a suo tempo ormeggiavano le loro barche, ma questo per dire che il nome Merano deriva da Mer, Meran, no? E, oltretutto, soprattutto nel 600, la versione italiana di Meran era Marano, e quindi questo va a confermare questa leggenda, naturalmente, da mare, Marano, no? Quindi, ecco, ma comunque queste erano curiosità che ogni tanto gli studiosi che si occupano di Merano riportavano, no? Allora, da lì nasce il mio interesse per eventuali altre storie, e queste altre storie effettivamente ci sono e sono state raccolte, non so se questa è già un'altra domanda, comunque sono state raccolte da personaggi che nell'Ottocento, un po' all'epoca, diciamo, dei fratelli Grimm, come facevano, avevano fatto anche loro, passarono un po' in tutto il Tirolo, ma anche nella zona di Merano, di maso in maso, di paese in paese, ricercando quelle persone che ci sono sempre un po' dappertutto e che hanno un po' questa memoria, non vorrei dire memoria storica, ma memoria culturale della comunità, conoscono tutte le storie, le raccontano, ecco, questi personaggi le hanno semplicemente trascritte. Quindi ci sono queste collezioni che risalgono principalmente alla prima metà dell'Ottocento, che sono rimaste così come raccolte, poi sono state anche sono diventate fonti anche per altre successive raccolte di leggende, però diciamo il grosso deriva da quell'epoca. E, ecco, io quello che ho fatto è stato intanto fare una ricerca sistematica di tutte queste fonti esistenti, quindi tutte le pubblicazioni a partire principalmente dall'inizio dell'Ottocento fino più o meno alla metà del Novecento. Infatti c'è, poi non è pubblicato, però c'è un catalogo di tutte queste leggende, naturalmente sono riportate anche versioni differenti. Dobbiamo pensare che in quella fase della raccolta c'è stato il passaggio dalla cultura orale allo scritto, quindi c'è stato un racconto specifico che è stato trascritto, però probabilmente quella stessa persona il giorno dopo avrebbe raccontato quella storia con particolari diversi, no? Perché la caratteristica della cultura orale è di non fissarsi su una formula specifica, ma soprattutto nel racconto delle favole, delle leggende, di adattarsi all'interlocutore, perché le leggende, soprattutto poi le favole, servono per comunicare anche dei valori, anche degli insegnamenti, o per dire qualcosa di specifico che vale per quel momento lì. Raccontata una settimana dopo ad altre persone può anche variare, no? In questo io mi sono sentito legittimato, come ho già fatto peraltro raccogliendo favole in Africa, in America Latina, mi sono sentito legittimato poi a dare la mia versione, quindi a raccontare queste storie avendo di fronte i meranesi, gli altoatesini, le persone dei giorni nostri, vedendo un po' di suscitare nelle persone nostre contemporanee qualche pensiero, qualche emozione. Grazie. Io poi più presto arriviamo anche a darvi qualche assaggio dei testi, quindi non voglio, volevo soltanto dimenticare di ringraziare la biblioteca per l'ospitalità, che per noi è molto importante, credo che sia una collaborazione per noi veramente importante e utile. Ecco, io la seconda domanda, ma proprio più che altro per introdurre poi al passaggio successivo, che è quello di arrivare ai testi. La seconda domanda mia è quella un po', siccome qui non trovate tutte le favole, no, tradotte, tra l'altro, perché la maggior parte delle fonti sono in lingua tedesca, non trovate quindi tutte le favole principali, ma trovate, io per un fenomeno ho trovato molto interessante l'organizzazione della raccolta e della presentazione, trovate delle sezioni, no, con un titolo, e all'interno di questo titolo poi c'è un potpourri, diciamo, se fosse un miscuglio, no, di leggende varie, di diversa natura, che sono unite da questo titolo della sezione, diciamo, da questo. Quindi mi sembra che questo sia stato, cioè lo so, è così, questo è il modo in cui tu hai lavorato. Io penso che sarebbe interessante se noi illustriamo le sette sezioni e in più cerchiamo di dare qualche assaggio di testi, no? Se sei d'accordo. Certo, è stato anche questo un lavoro di interpretazione, naturalmente quello di dire facciamo dei gruppi di favole o di leggende. In certi casi è stato abbastanza spontaneo, perché tutte le leggende degli orchetti, che sono dei personaggi fondamentali naturalmente nell'immaginario fantastico della nostra terra, ecco, quelle stanno tutte insieme, anche se poi si incrociano certe con altre tematiche. E quindi diciamo che queste leggende vanno da, appunto, questi racconti che si avvicinano molto alla favola, ad altri che si avvicinano più, se vogliamo, al mito, e ad altri ancora che sono proprio delle leggende, cioè spiegano come mai appunto Merano ha quel nome, o come mai quella fantomatica città è scomparsa. Questo qua sentiremo subito questo racconto, o come mai c'è una determinata via con un determinato nome a Merano, e cose di questo genere. Quindi le varie sezioni vanno appunto da queste città scomparse, nani, giganti, uomini, orchetti, ai santi, agli spiriti, fantasmi, tesori, e poi c'è un ciclo dedicato, questo specifico di Merano, anche se ha delle analogie con altri personaggi che si trovano però sempre nella nostra zona, è un ciclo dedicato al cosiddetto studente di Maya, di cui poi sentiremo anche qualcosa, magari vi dico qualcosa in più dopo. Allora io comincerei invece con la prima sezione, che è quella appunto più mitologica, se vogliamo, di cui fa parte questa leggenda di cui vi ho parlato sul nome di Merano, ma anche la famosa leggenda di Maya, che viene tramandata in varie fonti. Maya, sapete, è, se vogliamo, uno degli altri nomi di Merano, cioè prima che esistesse il nome Merano esisteva una stazione romana con questo nome, probabilmente Maya o Maies, non si sa bene, comunque posta un po' al confine, non a caso, tra la provincia dell'Arezia e la regione Venezia, che correva proprio nei pressi di Merano. E poi abbiamo successivamente, nel tardo Medioevo, cioè nel primo Medioevo, il Castrum Maiense. Questi sono fatti storici, però ecco, su tutti questi elementi o frammenti storici poi si costruisce questa famosa leggenda di Maya. Sì. Maya fu una città romana assai prospera, poi all'improvviso scomparve. Tra l'VIII e il IX secolo fu travolta da una frana rovinosa, capace di cambiare il corso del Passerio e di cancellare ogni traccia degli splendori di un tempo. L'antica Maya giacque sepolta sotto metriti detriti. Per questo in seguito fu definita la Ercolano Tirolese o la Pompei Retica. Padre Cassian Primisser, il redattore degli Annali di Maya, tramanda una versione un po' diversa. Il suo racconto risale alla seconda metà del Settecento. Dice che Merania era quella porzione della città di Maya che sfuggì al cataclisma verificatosi verso la fine dell'VIII secolo. Accade che il rio Romecius di Ramez di Nova, che allora sputava a precipizio nel Passirio, straripò in seguito alla pioggia persistente. Riempì il letto dello stesso Passirio e la gran parte della città fu inondata e poi sepolta. Da lì in avanti il fiume, secondo gli analisi Maya, prese a scorrere in una direzione del tutto diversa, cioè verso ovest, mentre prima scendeva a sud. Dell'antica Maya, oltre il quartiere detto Merania, rimasero intatti solo la chiesa di San Valentino e pochi castelli. La città, fino a 100 anni prima, era stata in pieno fiore, sede di duchi, di conti, di comandanti militari e poi fortezza di confine tra Bavari e Longobardi. Un'inondazione o una frana, dunque? Secondo altri racconti, della città restarono soltanto un brandello del muro di cinta nei pressi di San Valentino e la torre di Maya Bassa. Si dice pure che nel giorno della catastrofe i maiensi avessero organizzato una processione all'anno. Dei cittadini della mitica Maya ebbero salva la vita solamente loro, quelli che al momento della catastrofe non si trovavano in città perché avevano preso parte al pellegrinaggio. È chiaro, no? Grazie. Ma il bello di questa leggenda di Maya, tramandata proprio con questo nome, la leggenda di Maya, è che fu ritenuta per molti versi autentica anche da importanti letterati. Questo per il fatto che si erano trovati dei frammenti di reperti di epoca romana e non si sapeva dare una spiegazione, e poi per il fatto che appunto la zona di Maya Bassa, in particolare Maya Alta, è una zona composta da detriti certamente riportati dal rio Nova in particolare, no? Certo, poi arrivare a dire che il corso del fiume sia cambiato a causa di questo, ecco, le cose sono, e chi conosce Merano e sa, conosce la zona dove c'è il Castel San Zeno, per esempio, sa che c'è una gola che è intuibile, l'acqua ha avuto bisogno direi di millenni per scavarla, quindi è poco probabile che precedentemente il fiume scorresse in un'altra zona. E un'altra leggenda, anche qui, che in qualche modo ha fatto discutere, perché ci si contende un primato importante, e qui giochiamo fuori casa, giochiamo fuori casa come veranesi, è l'ubicazione del famoso Roseto, il giardino delle rose, Rosengarten, di Re Laurino, che secondo la tradizione che poi ha preso piede si troverebbe sulle Dolomiti. Però, ecco, la versione originale, a quanto sembra, sarebbe la seguente. Il roseto di Re Laurino e della sua incantevole figlia si trova nei dintorni di Merano. Secondo alcuni è sopra Plas, ai piedi del Cigat, sul declivio dove il monte ha depositato alcuni grossi massi. Secondo altri, il giardino fiorì sui pendii che scendono dolci da Castel Tirolo verso Quarazze, tra Castel Torre e il monte di Merano. Anche oggi la strada che dalla città si innerviga verso la roccia dei Conti si chiama Via Laurin. Il giardino era disseminato di fiori, il cui profumo possedeva virtù straordinarie. Poteva guarire ogni malattia e consolare ogni cruccio. Usignoli e fringuelli vi tenevano i loro concerti, né muri né steccati ad impedirne l'accesso. Il rosetto era cinto di nastri di seta e fili d'oro. Laurino era vecchio e saggio, una personcina mite e amante della vita. Dentro la montagna il re dei nani aveva, anzi ha tuttora, il suo palazzo di cristallo e una figlia dagli occhi color del cielo e dai capelli biondi come l'oro. La ragazza amava molto suo padre, ma non altrettanto quella vita costretta nel ventre del monte. quando ebbe l'età, chiese al re un appezzamento alla luce del sole per fare un giardino. Laurino non ci trovò nulla da ridire e volle esaudire quel desiderio. Così la bionda principessa uscì all'aperto, cercò uno spazio adatto e ripulì il terreno da rovi e spine. Poi ripiantò ogni sorta di rosa, facendone il meraviglioso giardino di cui ancora oggi si parla. Bastava guardare quel rosetto per ritrovare il gusto della vita, oppure sentire il profumo per cogliere il senso dei giorni che passano, o lasciarsi distrarre dal canto degli usignoli per riconciliarsi col mondo. Fu proprio perché tutti potessero trarne il massimo beneficio che la giovane non li circondò di muri o di steccati, limitandosi a tendere tutto intorno un nastro di seta dorata. La leggenda non rivela quando questo paradiso ebbe fine. Secondo alcuni, un brutto giorno comparvero tre cavalieri neri e, considerando la felicità terrena opera del demonio, fecero tavola rasa del rosetto per poi governare, a modo loro, su tutta la regione. Secondo altri, il giardino di rose è ancora là. Basta saperlo vedere. Grazie. A volte le leggende hanno questo duplice finale, no? Potrebbe essere che finisce male, ma anche si può anche vedere un lieto fine. Comunque, a conferma di questa accurata realtà che il giardino delle rose di Laurino si trova nel Meranese, c'è un'altra leggenda, la leggenda di Barbarella, che racconta che nell'anno 1809, quando ci fu la battaglia, l'ultima battaglia con i francesi delle truppe di Andreas Hofer, a un certo punto, proprio sul monte di Merano, uno dei combattenti tirolesi fu colpito quasi a morte e vicino a lui c'era la sua ragazza che gli aveva portato del latte, e a questo punto rimasero da soli e dalla terra uscirono dei piccoli ometti e con loro una ragazza bionda, e presero il giovane ferito, lo condussero in alto fino ai ghiacciai per poi entrare in questo palazzo di cristallo dove c'era appunto Re Laurino, quindi direi che è una dimostrazione abbastanza evidente di dove si trova il giardino delle rose. Va bene, comunque queste leggende fanno parte del capitolo Nani e giganti, perché i nani sono fondamentali nella zona di Merano, sono quelli per esempio che coltivavano il vino, quindi ci sono leggende che riguardano la coltivazione del vino, oppure costruivano le chiese, come la chiesa di San Pietro, mentre i giganti, che invece erano a quanto sembra i discendenti dei vecchi dei pagani, cercavano di contrastare questa attività finché anche i giganti glielo distruggevano, finché anche i giganti poi col tempo si convertirono e diventarono buoni. Comunque, invece altri personaggi interessanti, direi, della zona di Merano sono gli orchetti. Ecco, gli orchetti sono dei personaggi veramente particolari, in tedesco sarebbe Nörgelen, e si dice che siano non siano altro che parte di quegli angeli che a suo tempo si ribellarono con Lucifero al Padre Eterno, però in realtà con pochissima convinzione, solo per andare dietro alla massa, e quindi quando poi Lucifero fu fatto precipitare agli inferi, loro rimasero in qualche modo appesi a un ramo, un sasso, eccetera, e diventarono orchetti, dovendo scontare questa loro condizione in diversi modi, principalmente vivendo un po' nelle caverne, nelle viscere della terra, eccetera, però potendo avere dei rapporti anche intensi con gli uomini, anche positivi, direi, di servizio positivo agli uomini, dipendenti anche in questo caso naturalmente da come venivano recepiti, quindi dal comportamento delle famiglie che beneficiavano della loro presenza. Ecco, un orchetto molto importante per Merano è l'orchetto della muta, quindi qui direi di leggere questa brevissima storia. Una volta lo si incontrava di frequente l'orchetto della muta. Portava capelli e vestiti grigi come il ghiaccio. Saltava all'improvviso in mezzo al sentiero mostrandosi ai passanti, che rimanevano paralizzati per lo spavento. Poi, punto in bianco, se ne andava sghignazzando. Nei giorni particolarmente assolati, l'orchetto raggiungeva la cima della muta. Lassù prendeva fiato e urlava come un pazzo. Lo sentivano anche da molto lontano. Saliva sulla vetta e cantava con la sua voce rocca. «Son così vecchio, mi è grigia la testa, ho visto la muta, 3 volte prato, 3 volte foresta». Chissà come potrebbe dire. Espressione di difficile interpretazione. Dominicus non c'è perché lui sa. Lui lo sa. Perché lui conosce l'orchetto della muta. Sì, ce ne sono naturalmente anche altre, alcune antiche, altre un po' più recenti, penso all'Anello Portafortuna, per esempio, è composta nel Novecento, però rimanendo sulla natura degli orchetti e sul loro rapporto con le persone, chiederei di leggere l'ultima della serie degli orchetti, che si chiama appunto L'ultimo orchetto. Si racconta appunto dell'ultima apparizione di un orchetto e del motivo per cui questi orchetti a un certo punto interrompevano la loro presenza in mezzo agli uomini. Io non avevo mai detto che erano così bravi gli orchetti, eh? Io non avevo mai detto. Sentite qua questa. Sant'Usio viveva un orchetto assai servizievole. Sarà stato grande quanto una pigna d'abete. È grande, è piccolissimo. Bastava che il mugnaio lasciasse il grande mulino la sera e la mattina se lo ritrovava ben macinato. Ogni tanto l'omelchino faceva visita alle serpenti della stalla all'ora della mugitura. Le stuzzicava in ogni modo e quando loro si arrabbiavano prendeva la porta e usciva di dentro. Un giorno, avendo notato che il vestito del folletto si era fatto a pezzi, il padrone chiamò il sarto e gliene fece cucire uno nuovo. L'orchetto, però, raccolse il vestito, risalì la valle in lacrime fino al passo del rombo e non si fece più vedere. Lo stesso accadde in un maso di Quarazze e al mulino di Casteldaura, sopra il monte di Rombo. Il mugnaio fece confezionare per l'orchetto che lo aiutava nel lavoro una giacca, un paio di pantaloni e delle scarpe. Poi diede tutto all'omino a ricompensa del suo lavoro. Ma l'orchetto imballò i vestiti, scoppiò a piangere, salì verso lunga valle e sparì per sempre. La generosità non tollera alcun compenso. Che ringrazia non merita. Anche su Montesole, sopra Barcine, su un orchetto, senza che nessuno gliel'avesse mai chiesto, aiutava nel pascolare le bestie. La mattina si usava da dietro ad ogni pastore la merenda. Lui però non scendeva mai fin giù al naso. Così i contadini solevano legare la borsa col pane alle corna di un caprone. L'orchetto si era messo al servizio di quei contadini da moltissimi anni. Il suo lavoro era davvero impagabile, ma loro pensarono di doversi sdebitare. Gli fecero cucire un abito tutto nuovo e lo strinsero alle corna del caprone. Quando l'orchetto se ne avvide, ruppe il pianto e disse: «Sono così vecchio da ricordare Monte Piccolo con un cerbiatto. Il pasto in alto io lo conosco, 9 volte prato, 9 volte bosco. Altrove, lontano, io devo andare, or che i padroni mi hanno pagato». Pronunciate queste parole, sparì e non tornò mai più. È l'ultimo orchetto che si sia visto nella zona di Merano. Grazie. A me sembra un po' un inno alla gratuità queste cose. Va bene, chiudiamo il capitolo Orchetti, ci sono anche altre storie, naturalmente questa è una piccola selezione, passiamo a un mitico studente di Mario. Di lui si racconta che fosse appunto figlio di una povera donna, vedova, probabilmente il suo vero nome era Hans, era un tipo sveglio ma svogliato. Fu iscritto alla cosiddetta scuola latina, a quel tempo c'era la scuola normale, diciamo così, e poi c'era la cosiddetta scuola latina per chi voleva progredire negli studi, e è da questa sua iscrizione la scuola latina che deriva questo appellativo, lo studente di Maya. Però una volta iscritto dimostrò subito di aver poca voglia di studiare e quindi andò in giro per il mondo in diverso... Scuole di magia. Sì, questa è un'altra scuola, naturalmente, perché a Lana, come tutti sanno, c'era una scuola di magia dove in certi giorni del mese si trovavano streghe e stregoni e apprendevano la magia nera. Non so se questo avviene ancora oggi, perché Lana è sempre stato un posto un po' così, no? Non so se c'è qualcuno di Lana qui, comunque diciamo che ogni paese ha il suo carisma, no? E Lana aveva questo, quindi lui più avanti nelle sue avventure frequentò questa scuola di magia e divenne un mago vero e proprio, no? Ecco, è proprio un ciclo il suo di leggende, ti pregherei di leggere quella che si chiama La falce insanguinata e poi magari subito dopo si può fare l'ultima, cioè l'epilogo di questo, la fine di questo signore. Allora qua è ancora buono, però alla scuola di stregoneria di Anna il Muasa student aveva preso a trasformarsi in qualsiasi animale, ad evocare tutto tempo e ad operare ogni sorta di incantesimo. La sua fama si diffuse ovunque. C'era sempre qualcuno che col favore della notte ricorreva a lui nella speranza di risolvere un qualche suo problema. Un giorno, un servo agricolo, la cui falce faceva le bizze, si rivolse al parrucchiere. Lui gli propose una manciata di una sostanza nera, simile alla pece. Gli disse di strofinare bene la lama della falce e poi di andare a tagliare l'erba. L'attrezzo non avrebbe mai perso il suo filo. Stai attento però, c'è sempre un però, a non avvicinarti troppo agli altri falciatori, altrimenti il metallo concederà sangue, lo amico. Il giovane ebbe presto l'occasione di sperimentare il taglio della sua lama. Sul campo, mentre gli altri sudavano sette camicie, lui avanzava senza alcuna fatica, al punto che raggiunse chi lo precedeva. E come aveva avvertito un studente, sul ferro lucido comparvero rosse gocce di sangue. Quegli altri sapevano delle insolite prestazioni della falce prodigiosa e furono presi da invidia. Uno di loro piazzò un'incudine nell'erba alta in modo che la lama si spaccasse al primo colpo. Ma il falciatore magico nemmeno si accorse di quell'ostacolo, procedette imperterrito nel lavoro. L'incudine fu tranciata in due come fosse stata di burro. La falce tuttavia si fece tutta rossa di sangue. Questa è una, e adesso abbiamo quella, l'epilogo, la storia di questo signore. Scusa, c'è da dire che tra questa che abbiamo letto e l'ultima ci sono varie avventure. Lui a un certo punto si incattivisce anche, sì. E gli abitanti non solo di Merano ma anche di altre località dell'Alto Adige se la prendono, non ce l'hanno in gran simpatia e cercano più volte di catturarlo. Lui ha un trucco, no, per non farsi catturare, che è quello di, cioè riesce a diventare invisibile. Questa invisibilità però si interrompe quando lui tocca o viene raggiunto da, anche un piccolo granello di terra, comunque, o viceversa, non ricordo com'era la questione. Comunque lui riesce sempre a sfuggire a queste catture, cercano anche di impiccarlo e all'improvviso si trovano un fantoccio al posto dello studente, alla forca di Sinigo, perché voi forse non sapete, ma a Sinigo c'era, ma questo è un dato storico, è un dato storico, sì. No? Però poi lo ritroviamo in molte leggende. Alla fine, dopo vari tentativi, ecco che cosa succede. Infatti dove c'era la forca di Sinigo poi ci sono varie storie, anche fantasmi che girano, cose strane che succedono, no? Sempre. E questa è una di quelle. Chi nasce furbo ha i punti contati. Così anche lo studente di Maya, malgrado tutta la sua magia, sentì scoccare la sua ora. A quanto si narra, lui, condotto per l'ultima volta ai prati di Sinigo, non ne fece un dramma, né mostrò mai segni di sconforto. Il tempo che il diavolo mi ha concesso è finito, disse, senza tradire alcun sentimento, e aggiunse: fate presto, che voglio arrivare all'inferno in tempo per i cadaveri del pranzo. Una volta morto, il suo corpo appeso alla forca divenne tutto nero come il carbone, segno che il diavolo sarà portato via per davvero. Secondo un'altra versione, furono i Meranesi a decapitarlo con una spada sulla riva del Passerio. La pietra su cui il boia inferse il corpo mortale divenne nera come la pece e per 7 anni lì attorno non crebbe più un filo d'erba. Altro che canela lì. Grazie. E con lo studente di Maya naturalmente siamo entrati nel mondo dei maghi, delle streghe, degli stregoni, e ci sono sempre questi diavoletti anche che si ritrovano nelle storie, quindi c'è una sezione proprio intitolata Diavoli e streghe, ci racconta per esempio della cosiddetta pietra del diavolo, ci sarebbe ancora presso Merano una pietra con incisa la coda del diavolo, e qui se ne dà la spiegazione, oppure la storia della strega nocciola, che anche fa una brutta fine. Ecco, questa è una, naturalmente, chi sono queste streghe? Sono, ecco, naturalmente non ha nessun riscontro storico, no? Ma sono impersonificazioni in qualche modo del male, e c'è sempre qualcuno che in qualche modo riesce a venirne a capo. Ecco, in questa storia che leggiamo si chiama, non lo dico, perché se no svegliamo. Ah, già, è vero, okay. Non lo diciamo. Non lo diciamo, però avviene anche qualcosa di particolarmente magico. Sì, è una bella storia questa, Un contadino aveva lavorato solo a falciare i suoi prati e ora bisognava raccogliere il fieno. Era molto, troppo per lui e la sua gente. Chiese dunque una mano al suo vicino, ma quello fece orecchi da mercante e rimase a casa. Nel pomeriggio, mentre l'agricoltore era nel campo, si levò un vento del diavolo che alzò tutto il fieno, lo sospinse in alto e se lo portava via, rendendo ancora più ingrata la fatica del povero uomo. Allora il contadino fu colto dall'ira e urlò: «Se il diavolo si è preso il fieno, che si prenda anche il forcone!» Non aveva finito di pronunciare la frase che l'attrezzo gli sgusciò di mano e sparì come un fulmine dal vento. Poco tempo dopo, il suo vicino, quello che gli aveva negato l'aiuto, si ammalò. A sentire i parenti le cose andavano di male in peggio. Il contadino avrebbe potuto anche andarlo a trovare se non fosse stato ancora mortalmente offeso per quel rifiuto. Solo quando seppe che stava per tirare le cuoia, tornò in sé e riconobbe che il rancore non giova né ai vivi né ai morti. Si avvicinò al capezzale del confinante e gli chiese dicendo: come stai? Cosa dicono i dottori? Cosa si può fare per aiutarti? I dottori, mormorò quello, possono dire poco e fare ancora meno. Tu invece sì che mi puoi aiutare. Detto questo, sollevò il lenzuolo. L'altro fece un salto verso la parete, sbiancando dalla paura, Il moribondo giaceva nel letto con una forca da fieno conficcata nel fianco. Quando ebbe finito di tremare, il contadino gli si avvicinò ed estrasse il forcone. Da quel momento il vicino si sentì meglio. In pochi giorni era guarito e di nuovo al lavoro. Il consiglio è che se il vicino ci chiede una mano, insomma, che... dagliela. Va bene, e ci sono poi diverse storie in cui succedono cose strane, no? Questo accadere cose strane è una specie di ritornello, evidentemente a quel tempo succedevano cose strane, oggi invece no. Non raccontate. Sì, oggi ci raccontano al telegiornale magari, no? Però... ecco, per esempio in questa brevissima storia, frutta fuori stagione. Un giorno a Merano si tenne una cerimonia funebre, tempo di carnevale. Al pranzo furono serviti prugne e fichi freschi. E tutti si stupivano di come fosse possibile avere di questa frutta in pieno inverno. Al tavolo sedeva anche un padre francescano, al quale la cosa apparve decisamente innaturale. Senza farsi notare dagli astanti, pronunciò sui frutti una formula benedetta. Allora la verità venne a galla, la frutta fresca scomparve e le piante rimasero fichi di mulo e gusci di noce. Era una magia bruttina, eh? Poi era meglio lasciare quello che c'era prima. Sì, pensare... però diciamo, questo a me sembra molto attuale. Perché sì, molto spesso si vedono delle cose che sembrano quello che non sono. Hai ragione. E bisognerebbe conoscere questa formula per far venire fuori la verità. Magari. Va bene, visto che abbiamo parlato di questo religioso, possiamo dire che la prossima sezione è dedicata a monaci e santi, perché nel Meranese ce ne furono molti, pensiamo a San Valentino, a San Corbiniano col suo orso, a Osvaldo, Santo Osvaldo tra i rododendri, anche questa è una bella leggenda, altre riguardano i ferri di San Leonardo, il bastone di San Magno, non molto conosciuto, poi la storia della nascita di un convento c'è, e la storia di Jutta di Braunsberg, però per sottolineare un po' queste contaminazioni culturali e questo essere città di confine di Merano, proviamo a leggere questa leggenda che si chiama Preghiera a Sant'Antonio. Mentre altrove le donne nubili invocano Sant'Andrea perché faccia loro capire qual è l'uomo destinato a prenderle con sé, nel Burgraviato le ragazze si rivolgevano in preghiera a Sant'Antonio da Padova. Cantavano così: Sant'Antonio da Padova, mandami un uomo da Mantova che non mangi o beva tutto quel che c'è, che non corra dietro ad altri, ma solo a me. Grazie. Mancano ancora due sezioni. Una è dedicata a spiriti e fantasmi. Tante storie, veramente, in cui ci sono questi fantasmi di personaggi sconosciuti, ma anche di personaggi famosi. Per esempio, nel lago di San Vigilio, sopra Merano, secondo la leggenda ci sarebbe stata l'anima niente meno che di Ponzio Pilato, e così anche altre leggende, questa riguarda in parte la Valpassiria ma anche Merano, perché in cima alla Valpassiria un tempo c'era un lago dalle parti di Corvara che periodicamente si svuotava e l'acqua distruggeva parchi anche consistenti della città di Merano. Nel 1402 la chiesa di Santo Spirito, la vecchia chiesa di Santo Spirito, e quindi anche qui attorno a questo lago naturalmente si narra che ci sia il lago non c'è più, però rimane naturalmente il fantasma del custode del lago, che non aveva fatto il custode abbastanza bene a quanto pare. Quindi c'è sempre una motivazione per cui questi fantasmi, che sono delle anime in pena, si aggirano nei pressi delle zone in cui viviamo. Ecco, ci sono anche naturalmente degli antidoti, come nella leggenda del cappello a tre punte. Di sovente, poco dopo l'Ave Maria, alla casa di sopra si sentivano i passi di un cavallo. Poi compariva un cavaliere dal cappello a tre punte, avvolto in un ampio mantello. Lo si vedeva risalire il sentiero fino al lago lungo. Lassù, dicono, avrebbe voluto gettare i pastori nell'acqua, ma non ci riuscì mai. La cosa durò diversi anni, finché non si tenne una processione col Santissimo sui sentieri che cingono i laghi della Muta. Si ritiene che si trattasse dello spirito di un uomo che in vita aveva imbrogliato nel misurare i confini dei campi. Attenzione. Naturalmente era una cosa molto grave questa, no? Spostare i cippi di confine. Ecco, qua si trattava di confini di campi, ovviamente, però il concetto di confine emerge sempre, anche in questo caso. Ecco, guai, attenzione a toccare i confini, perché si può fare una brutta fine. Il bello di quell'epoca, no, non so di che epoca sto parlando, ma di quell'epoca passata, è che per ogni cosa c'era una spiegazione, no? Oggi abbiamo tanti punti di domanda, ma a quel tempo tutto era spiegabile in questi termini. Per esempio, la presenza di un rospo sulla scala dell'antico cimitero di Merano. Sulla scala dell'antico cimitero di Merano, da anni un rospo saltellava avanti e indietro. Lo si poteva raccogliere e gettare, o persino uccidere tutte le volte che si volesse, ma il rospo, alle tempora successive, era di nuovo lì. C'era una donna buona e pia. Solo lei si rese conto che la bestia altro non era che un'anima in pena. Si informò, non si sa come, delle condizioni ottemperando le quali l'anima sarebbe stata liberata, e fece tutto quello che si doveva. Alla fine, avendo espiato le sue colpe, ecco che il rospo si trasformò in una colomba, bianca come i primi fiori di primavera. Davanti al coro stupito della donna che l'aveva resa libera, spiccò il volo e sparì nell'azzurro del cielo. Questa è la tua fine. Meno male. Invece meno a lieto fine sono le molte leggende che raccontano di tesori nascosti. Ah, sì. Tesori nascosti e in qualche modo inarrivabili, perché in qualche modo forse ci vuole un atteggiamento un po' diverso, più coraggioso verso le cose che ci vengono offerte, altrimenti queste cose spariscono. Sono ogni cosa anche il suo momento, bisogna saper essere presenti nel momento giusto, al posto giusto, e in qualche modo cogliere quell'istante. Forse non sapete, ma questi tesori, a quanto si dice, una volta ogni 100 anni fioriscono. Ecco, questo è quanto ci racconta, appunto, il tesoro fiorisce. La prossima leggenda è la penultima. Si raggiunge il Maso Othman uscendo dalla porta Venosta. In quel luogo, tanto tempo fa, fu sepolto un tesoro. Perciò nella casa succedevano cose piuttosto bizzarre. In pieno giorno si sentiva qualcuno girare le stanze e masticare pane secco, ma nessuno era in grado di vedere di chi si trattasse. Tra il Maso Othman e il Maso Winkler si estendeva un vigneto. Sarà stato ai primi dell'Ottocento ed era tempo di vendemmia. I vignaioli raccoglievano i grappoli quando si udì un insolito rumore. Guardarono verso la casa Othman, da dove proveniva quel chiasso, e furono spettatori di un'ineffabile meraviglia. Il tesoro stava fiorendo. Si dice che questi tesori fioriscano ogni 100 anni. I rustici restano immobili, a bocca aperta, fiori d'oro e d'argento simili a quelli della caccia volteggiavano in aria sfolgoranti, per poi posarsi a terra come faville spente e sparire. Dopo il primo momento di incantato sconcerto, gli uomini della vigna corsero in fretta e furia da casa, ma quando raggiunsero il tesoro era già completamente sfiorito. Questo vale anche oggi, però, Certo. Va bene, l'ultima leggenda che leggiamo si intitola Madonna dell'Arena. Qua non vorrei commentarla dopo, passo direttamente il microfono a Aldo dopo, però la introduco, sì. Perché è una di quelle leggende che in qualche modo ci raccontano l'anima di Merano, o almeno un aspetto dell'anima di Merano, e anche della storia, quella vera di Merano, cioè questo in qualche modo rimanere salvaguardata da quasi tutte le guerre. Tante guerre si sono succedute, diciamo dal Medioevo ai giorni nostri, alla Seconda Guerra Mondiale, però Merano fu sempre in qualche modo o aggirata, diciamo, c'è solo un episodio nel 300, ai tempi di Margherita Maultasch, dove la città subì delle conseguenze, però al di là di quello tutte le altre volte, miracolosamente, la città fu lasciata stare. Nella prima guerra mondiale naturalmente patì la fame, la cittadinanza eccetera, ma non ci furono episodi di guerra, e ancor meno nella seconda guerra mondiale, a parte alcuni episodi, però rispetto a Merano, rispetto a Bolzano che fu semidistrutta dai bombardamenti, Merano rimase illesa in quanto città ospedaliera, infatti fu rifugio poi di vari personaggi più o meno loschi che sentivano sicuri in quella città. Quindi c'è una specie di anche deriva anche un po' dall'atteggiamento dei meranesi, che originariamente ai tempi di Mainardo erano comunque appartenenti a un ceto commerciale, quindi poco propenso alla guerra e più alla mediazione, e forse questa indole è rimasta intatta anche quando poi Merano per molti secoli si è addormentata e si è risvegliata come centro turistico, comunque sempre dipendente da un tipo di economia che non prevede, diciamo, che non ha nulla da guadagnare dai conflitti. Ecco, magari i conflitti ci sono in alcune altre località intorno a Merano, non so, la Valpassiria o appunto Lana, perché lì c'era la scuola di magia, no, però Merano in realtà rimase sempre illesa. Così questa leggenda mi sembra abbastanza significativa, anche dei motivi forse per cui questo avviene. Ma è vero, no? Certo, tutto vero. Molte guerre si sono succedute nel corso dei secoli, Merano ne fu sempre risparmiata. Si dice che il merito sia della Madonna della Sabbia, la cui immagine si erge ancora oggi in Piazza dell'Arena. La statua di marmo bianca fu realizzata nel 1801, proprio per ringraziare del fatto che la città era uscita in colma dalla campagna belliche del 1799 e del 1800. Il suo sguardo in origine era rivolto al sud. I meranesi promisero di recarvisi in processione all'inizio di ogni mese di maggio. Non passò molto tempo da quel primo anno del secolo. Nel pieno della sublevazione di Hofer, 1809, ecco che una notte la vedetta della porta Bolzano avvistò in lontananza le avanguardie dell'esercito nemico. I soldati si avvicinavano alla città e l'avrebbero ridotta in cenere. Fu dato l'allarme e si organizzarono le squadre di difesa. La nottata trasmise il terrore generale. All'alba le campane, come ogni giorno, suonarono l'Ave Maria. Proprio in quel mentre i guerrieri avevano attraversato il ponte dell'ospedale e si schierarono alle porte della città. Ma non fecero un passo in più. Restarono immobili, come le pietre del muro di cinta. Mentre la campana del Duomo dava i suoi ultimi intocchi, la Madonna dell'Arena, il cui volto originariamente guardava a meridione, da dove proveniva la minaccia, si era girata. I suoi occhi adesso erano fissi sulla città che intendeva proteggere. I soldati, francesi o bavaresi che fossero, si tolsero il cappello e attesero muti. Infine il comandante salì a cavallo e dette l'ordine di ritirarsi. E si è salvata anche questa volta. Grazie. Ecco, grazie. Grazie a Saggio, no? Così ho potuto sentire un po' il sapore, no? di questa raccolta. Avete qualche domanda? Sfruttando la presenza di Paolo, se qualcuno vuole chiedere qualcosa, qualche richiesta specifica di informazione, possiamo farlo, se no non è obbligatorio. Cioè, c'era quello che diceva dibattito, no. Quindi, però io vi do questa possibilità, piacere. Però. Ci sono interventi? No? Io avrei una domanda. Vabbè, ma preparare, no, a te non lo chiedo. Paolo, ma perché a te piacciono le favole? Sì, lo so che ci hai raccontato prima, che storica, ma perché ti piacciono le favole? Perché ti piacciono le leggende? Perché ti piacciono? Perché fanno bene. Perché fanno bene. Che fanno bene è una bella risposta. Beh, fanno bene perché contengono, diciamo, questa è un'osservazione che va al di là delle storie meranesi. Diciamo, io ho raccolto favole in Africa, poi ho fatto la stessa operazione in Perù e in Ecuador, e quello che noto al di là delle differenze tipo culturali eccetera è che contengono degli elementi universali, cioè raccontano delle cose che riguardano non solo tutte le culture ma tutti noi, cioè ci ritroviamo in queste favole, anche in quelle. Sono un po' come delle cure, sono un po' come un modo di curarci le favole. Sì, nel senso che sono un modo strano di dirci la verità su noi stessi. No? È un po' paradossale, no? Perché sono cose inventate tutto sommato, però contengono delle verità sull'essere umano, no? In questo senso sicuramente ci fanno bene, ci curano dalla tentazione che invece abbiamo di raccontarci delle favole, però nel senso deteriore del termine. Senti, risposta, va bene. Va bene, allora prego. Il mondo dell'Ottocento, quindi estremamente moralistico, qui non appaiono queste favole, perlomeno insomma, di quelle che sono state dette, o non so se ci sono. Le favole? Favole moralistiche che nell'Ottocento erano piuttosto evidenti, cioè numerosissime, e su questo che finivano, girava proprio sì. La società del tempo, quindi. Non mi fermerei solo a queste molto fantasiose, strettamente quasi legate al mondo giovanile, se vogliamo, no? Però c'erano anche quelle che stavano nella città vera, dove magari c'era un'economia da sostenere, e pertanto c'erano degli interventi favolistici, sì, però piuttosto profondi nel modificare o nel creare atteggiamenti ben precisi all'interno della società. Se poi guardiamo al nord, visto che è stato detto della Germania, oppure dei paesi ancora più a nord, ad esempio c'erano delle figure che erano, non so, i preti cosiddetti, no? Che risolvevano tutti i problemi alla fine con l'acqua santa, dopo che c'erano state, insomma, delle grossi conflittualità tra il demone, i bambini, ma quelli veri, insomma, ecco, per intesi. Quindi cercavo di capire se qui non si sono trovate questo tipo di favole o sono state non dette. No, no, ci sono anche questi elementi qua, in parte, per esempio quella del, no, quella, col frate che fa la benedizione, che rompe il battesimo, no? Sì, sì, naturalmente queste in qualche modo facevano parte anche del vissuto, no? Perché effettivamente, diciamo, la necessità di dare, di darsi delle risposte, anche adesso abbiamo parlato in modo scherzoso della, delle streghe, no? Però sappiamo che anche storicamente c'è un'epoca in cui si costruisce questa immagine della strega e ci sono delle persone che sono loro malgrado coinvolte, interviene l'Inquisizione, c'è tutto un, diciamo, un certo tentativo di dare delle risposte, spesso di carattere, anzi quasi sempre di carattere religioso, perché di società molto in cui, diciamo, la religione e la religiosità sono un po', diciamo, il modo di interpretare la vita, e quindi si cercano di queste risposte. Qui quindi diciamo, il contesto è anche abbastanza reale, no? Effettivamente era così quando, ma a parte che succede anche oggi, no? Che viene chiamato, che si danno le benedizioni, no? Quindi, beh, naturalmente un conto prete ci deve essere sempre. Sì, sì, un conto naturalmente, no, va distinto poi tra la superstizione e la fede autentica, che è un altro discorso, no? Però elementi di superstizione continuano ad esserci anche oggi nella nostra, sia nella nostra realtà urbana, vorrei dire, e a maggior ragione anche nelle tradizioni rurali, quindi tutti questi elementi sicuramente ci sono. No, volevo solo dire che questo che mi è piaciuto di Merano, anche perché la mia città probabilmente, allora, però anche perché affonda, cioè è una sono delle fame, dei racconti che affondano le radici anche in una camminata. Cioè io, per esempio, che ho vissuto i primi 30 anni a Merano, da piccola andavo col nonno, con i genitori, con i fratelli in giro, quindi i posti sulla montagna che hai citato, non so, io quando c'è stata l'alluvione a Firenze, la famosa alluvione del 66, per esempio, a località San Pietro a Guarazze, io sono passata con il nonno, il papà, e quindi anche attraverso questa degustazione di queste favole è un modo leggero, però secondo me anche per riflettere. Perché, come dicevi tu, per esempio, la cosa più importante è, diciamo, è meno leggera, che ho percepito questa sera, è il fatto che, per esempio, Merano, anche in città di Bolzano, perché io ci abito, per fortuna me ne ritorno tra un po', no, Bolzano è una città più grande, però, a volte anche più grande, però Merano è più piccola, più le persone, c'è più semplicità un po' nel percepire, c'è più contatto forse con la natura, perché le montagne sono vicine e quindi il giardino, l'aurino, perché sono tutte più vicine forse, no? E sono montagne molto alte, perché subito tu puoi lo zaino in spalla a prendere e andartene da Parazza e andartene sulla montagna. Però grazie per... Ma sarà anche perché Merano e Bolzano sono due storie un po' anche diverse, no? Cioè Bolzano non ha una raccolta di leggende così, forse, come... Non ancora. Però è la raccolta, le leggende ci sono. No, ci sono anche le leggende. Sì, perciò dico, manca la raccolta, non le leggende. No, è un lavoro da fare. È ancora anche un'editrice, questo mi ha colpito, che hai detto prima, no? Cioè che Merano col commercio... Anche se anche Bolzano ha una tradizione commerciale, però... Diciamo che Merano ha, no, diciamo, a un certo punto anche Bolzano ha soppiantato Merano, no, dopo il Medioevo, come centro commerciale con le fiere, eccetera. È diventato anche un centro politico da quel punto di vista, mentre Merano, diciamo, come conferma la leggenda di Maia, Merano, oltre questo essere in qualche modo protetta dalle guerre, però c'è, poi scompare, poi ritorna, si addormenta, no? E rimane, dicevo, questa Maia, al di là della leggenda, che naturalmente non è vera, però effettivamente si è persa ogni traccia, no? Poi a un certo punto, verso l'Ottocento, non il 1800, il nono secolo, compare con un nuovo nome, Mairania, no? Non si parla più di Maya, e poi con Mainardo nasce, si forma e diventa addirittura la capitale del Tirolo, quindi il centro politico del Tirolo. Poi la capitale di fatto si trasferisce a Innsbruck e Merano di nuovo rimane per secoli quella città che era nel 300, no? Con la stessa struttura urbanistica, eccetera, no? Sì. E poi rinasce di nuovo a metà, verso la metà dell'Ottocento, no? Per diventare qualcosa di diverso ancora, no? Quindi ha questo ciclo, no? Mm-hmm. Vitale molto particolare che... Io forse c'è un aspetto che mi interessa sottolineare, di cui sono molto grato a Paolo, è anche il fatto, vivendo in questa terra piena di contraddizioni, anche di frizioni, il fatto che questa operazione abbia fatto emergere un patrimonio di storie, no, di leggende, che sono accessibili per la maggior parte, se vedete la biografia, sono tutti in lingua tedesca, diciamo, è come se fosse una porta, no? Si parla spesso del radicamento degli italiani, degli iranesi, in questo caso, ma degli italiani in generale, di quelle di lingua italiana in questa terra, e secondo me un valore aggiunto è quello di darti la possibilità di entrare in un mondo no? Che sappiamo, abbiamo detto, c'è anche molto riferimento alla mitologia classica che ci riguarda, Roma, cioè la Casa Maese, ma anche a tutto questo aspetto della cultura di lingua tedesca, che in questo libretto, in maniera molto semplice, trova un accesso. E per me, io vivo a Merano, però arrivo dopo, diciamo, non sono nato a Merano, quindi non ho l'infanzia, non ho i sapori della... Però dico, il discorso è che ti dà profondità nel rapporto con quel posto dove sei, questa roba qui. Ti dà come se, insomma, non è una cosa che ti risolve i problemi, però ti fa capire che, insomma, sei più dentro, no? E per concludere, perché dicono che le presentazioni non dovrebbero durare più di un'ora, qui siamo già un'ora e un quarto, vorrei citare due cose che scrive proprio così, insomma, come la chiosa finale, che scrive Paolo, sia una nella prefazione, dice: queste leggende ci invitano a spegnere per un istante televisore, cellulare, motori e apparecchi elettronici, per porci in ascolto di una verità che viene da lontano e può condurre lontano. Quindi proprio chiede un'operazione di estraneamento rispetto alla massa di, non voglio dire che cosa, che ci inonda. E poi lui si pone il problema, cioè, di dire a chi rivolge queste pagine, e questo mi è piaciuto anche molto. Torno alla curiosità iniziale che davo come grande qualità di Paolo: a chiunque non si accontenta di ciò che vede con i propri occhi, a chi è disposto a rinunciare a risposte facili, a rimanere a lungo col fiato sospeso, a coltivare un animo curioso e inquieto. Quindi è un invito alla curiosità, che credo che sia la cosa più preziosa che ci possiamo portare. I libretti sono lì, se volete comprarli non siete obbligati a farlo, però costa 8 euro, quindi è un prezzo molto popolare, diciamo. Leggendario. Come? Leggendario. Leggendario, diciamo, così. E questo prima dell'acquisto della Mondadori, CRCS, e prima delle nuove norme sugli sconti sulla scontistica. Dobbiamo fare una magia là, perché non c'è. Ecco. Per cui, appunto, se vi interessa potete acquistarlo qui, se no, appunto, non voglio solamente forzarvi. È chiaro che noi, se li facciamo, poi dobbiamo anche avere, se no non li facciamo più. Va bene, grazie a tutti. Grazie.